tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci vieni più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat di Firenze, e con vivo piacere che arriviamo a una nuova puntata del notiziario anticlericale. E partiamo dal nostro comunicato, che si può trovare sulla pagina 32 del nostro sito giordanobrunomi.wordpress, a proposito della strage di Piazza Fontana. Fu strage clerico-fascista di Stato. La Democrazia Cristiana, partito espressione organica del Vaticano e da esso finanziato per anni, anche grazie all'amnistia Togliatti, che lasciò impuniti migliaia di fascisti, e grazie anche alla mancata epurazione, la cui commissione era presieduta dallo zio di Berlinguer, insomma, grazie a tutti questi fattori, furono piazzati fascisti affini in tutti i gangli essenziali della Polizia di Stato e dei servizi segreti, specie a Milano. Il ministro degli interni democristiano Franco Restivo, figlio del fascista Empedocle Restivo, nominò questore di Milano, ovviamente un fascista, già direttore della colonia di confinati antifascisti delle isole Ponziane. Nell'ufficio politico della questura di Milano erano poi presenti ex repubblichini di Salò. Il ministro democristiano Restivo fece in modo che nessun ex partigiano inglobato dopo il 25 aprile nella polizia, furono circa 8.000, fosse assegnato alla questura di Milano. Quindi Milano, medaglia d'oro della resistenza, fu quindi lasciata del tutto indifesa di fronte al fascismo bombarolo. L'archivio della NATO è ancora segretato e così mancano ancora notizie fondamentali. Ricordiamo poi che la polizia, pur sapendo che nel 1949 erano stati arrestati circa 8 fascisti con valigie di tritolo sul treno Roma-Taranto e la magistratura era stata informata, pur quindi avendo tutte le notizie di precedenti specifici di trasporto di tritolo sui treni da parte dei fascisti, indagò solo gli anarchici. Per leggere tutto il volantino e i riferimenti bibliografici, guardate sul sito del Circo Giordano Bruno alla pagina 32 in evidenza. Abbiamo poi donne discriminate in Vaticano, dal Fatto Quotidiano del 29 dicembre, in cui si denunciano le solite discriminazioni contro le donne da parte della Chiesa. Sul periodico locale milanese 7 giorni del 20 dicembre, cosa ci dicono da Arese? Ci ricordano che Don Nicolò Migliorini, sacerdote salesiano, sospeso dall'ordine, è stato condannato a 1 anno e 5 mesi per pedofilia contro i ragazzini dell'oratorio e a 3 anni è stato condannato un educatore oratoriano. La Cassazione conferma la condanna per il signor Paolo Malini, accusato di aver abusato sessualmente di un quindicenne e di averlo indotto a delle orge, tra lui il prete. Abbiamo poi su Cronaca Vera del 10 dicembre la terribile storia di questa suora filippina. Appena arrivati in Italia si accorsero che la suddetta era malata di sclerosi multipla, l'hanno subito cacciata dall'ordine. Un altro esempio di misfatti clericali, c'è questo Don Paolo di Trieste che è stato condannato a 21 anni per omicidio di un altro prete. Don Paolo Piccoli, parroco di Trieste, condannato a 21 anni, il sacerdote incastrato dalle gocce di sangue e dalle testimonianze della perpetua del defunto. Disgrazie clericali, Francia. Fedeli intossicati alla messa di Natale, 21 finiscono all'ospedale. Dico sempre di evitare le chiese che sono posti pericolosi. Anche l'oratorio di Rho, in provincia di Milano, è stato inondato nelle alluvioni di questo autunno. In Nigeria 11 cristiani sono stati messi al muro e uccisi dai terroristi dell'ISIS. Non che qui nessun santo è intervenuto per proteggerli. Anzi, questa povera signorina bellissima di 26 anni di Arce, in provincia di Frosinone, invece di avere un miracolo per la sua buona volontà di andare alla messa di Natale, invece è morta in un incidente stradale, come ci comunica giornalettismo.com. Abbiamo poi le nostre mostre anticlericali. Ricordiamo che sono disponibili in tutta Italia richiedendole a Circo Giordano Bruno, al nostro sito. C'è la mostra su Giordano Bruno, la mostra per il 150esimo della liberazione di Roma dal boia ghigliottinatore Pio IX, la mostra darwinista evoluzionista e la mostra sul clerico fascismo strage di Piazza Fontana. Sono tutte mostre su circa 11-12 pannelli arrotolabili, foto, vignette e ritagli. Da Fatto Quotidiano del 2 gennaio 2020. Ma quale storia? I due papi e un sublime cinepanettone. È in arrivo per questo nuovo sceneggiato e per la parte del papa Anthony Hopkins, famoso per le sue parti da feroce criminale. Mentre ero in vacanza in Veneto per le cure termali, ecco che mi informano così l'ufficio turistico di Montegrotto Terme che c'era questa chiesa che fu chiusa ai tempi di Napoleone per disposizione del governo francese. Chiesa e convento passano sotto il demanio. Napoleone sospende gli ordini religiosi, anche gli austriaci vendono il santuario e ne danno il beneficio a un ospedale. Disgrazie clericali. Vandalizzato il presepio dei Cappuccini a Casal Pusterlengo, ignoti rompono le statue. Abbattuta con le ruspe la cattedrale vegetale di Lodi, gli alberi erano tutti marci. Attacco in cattedrale, 22 feriti nelle Filippine durante la messa. Anche stavolta le presunte divinità celeste non sono intervenute per favorire la chiesa. Anche a Bollate attentato al presepe in piazza. Capanna distrutta, autore un gruppo di ragazzini a Pregnano Milanese. Bene, saluti a tutti, alla prossima puntata, saluti anticlericali.